24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Certo che se vogliamo risolvere i problemi di autostrade affidando tutto ad ANAS, basta farsi un giro sulle strade statali e vedere in che condizioni sono tenute, e basta vedere l'inefficienza di ANAS per capire che, come al solito in Italia, il taccon se peggio del bucio, dicono a Venezia, che vuol dire che la pezza è peggio del buco, va. Quindi poveri noi. Vabbè, piuttosto scettico il nostro ascoltatore. Eccoci, seconda parte di 24 Mattino. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Sono le 8, 10 minuti e 20 secondi. Cara Maria Latella, io sono venuto a Roma, sono in diretta da Roma e non ci sei. Ma com'è questa storia? Scappi. Perché ogni tanto bisogna ricongiungere le famiglie. E in questo caso la mia. Giusto. Questo è il periodo. Tu ti sei ricongiunto con la tua. Questo è il periodo. E io con periodo. La mia. Questo è il periodo. Comunque, giusto. Volevo dire, intanto buon 2020, buon decennio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, e all'ascoltatore che prima diceva ma sarà peggio che ANAS, ecco, forse il nostro ascoltatore non ha sentito il discorso di Capodanno del Presidente della Repubblica Mattarella. Che però non ha parlato di ANAS, attenzione, no, ha lanciato un messaggio molto chiaro. No, fammi fare la mia riflessione. Il messaggio chiaro del presidente Mattarella è: smettiamola di guardare tutto con occhiali negativi, perché finora, è quello che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, non è servito a granché. Gli italiani hanno una lunga predisposizione, noi giornalisti in particolare, anche all'autodenigrazione, a non vedere le potenzialità che ci sono. Dunque, l'ascoltatore metteva già le mani avanti e diceva: sapete come sono le strade gestite da ANAS. Io voglio sperare che la tragedia del Ponte Morandi e tutte le altre manifestazioni di cattiva cura del nostro patrimonio statale serva a far cambiare le cose, perché se no, se ci piangiamo tutte le volte addosso e lasciamo che le cose restino come sono, l'Italia degli ultimi 20 anni è lì a dimostrare che non cambia niente e anzi peggiora. Mi sembra che le parole di Mattarella vadano proprio, anzi esplicitamente vadano nella direzione di dire: prendiamo fiducia. Così come alla fiducia ha pensato anche Papa Francesco quando ha parlato delle donne e del ruolo che alle donne va riconosciuto, senza steccati, senza tutte quelle sovrastrutture che ci mettiamo quando appunto in Italia si dice una cosa e immediatamente si apre un inutile spesso dibattito. Sì. Allora, per carità, con massimo rispetto ovviamente per il Presidente della Repubblica Mattarella, detto ciò, cara Maria, noi continueremo ad esercitare quel sano scetticismo che contraddistingue il nostro mestiere, no? Perché tanto, cioè, a noi tocca vedere le cose in negativo necessariamente, proprio per definizione, per mestiere. Poi, se vediamo delle cose belle che ci piacciono, per carità, le citiamo e lo facciamo sempre, però sempre con quell'occhio un filino cinico, che altrimenti stiamo qua a fare i cantori quando noi abbiamo dato i dati OCSE sul livello scadente di metà dell'Italia nella preparazione scolastica, abbiamo fatto il nostro lavoro. Quello che dico è che, accanto al mettere in luce tutto quello che non funziona, ed è tanto, come diceva per esempio prima il nostro direttore Fabio Tamburini, mettere in luce che è un paese ultra tassato ed è un paese in cui c'è un sacco di gente che non paga le tasse, queste due cose si mettono insieme e fanno sì che il paese resti immobile. Ci sei Maria? Ecco, Tamburini mette in luce le due cose. Ecco, io penso che dobbiamo mettere in luce anche noi le due cose, cose che non funzionano sicuramente, e anche quelle che funzionano. Non sono tantissime, ma ci sono. Allora, il traffico che oggi funziona, pare, perché le cose vanno abbastanza lisce. Sentiamo, va. Ma Paragone, se era nel nulla, perché non è andato via lui invece di farsi cacciare? visto che aveva già detto di non rimanere lì se si alleavano col PD. Paragone, cioè l'ex direttore della Padania, il giornale della Lega, è stato espulso dal Movimento 5 Stelle. Chissà dove andrà ora, chissà in quale file si infilerà. Ma e qua, cara Maria, si apre l'anno come si era chiuso, con le tensioni nel Movimento 5 Stelle, dico dal punto di vista politico, ovviamente, tutta una serie di tensioni politiche che attraversano anche la maggioranza, ci arriveremo tra poco, e però all'interno del Movimento 5 Stelle, con questo Gianluigi Paragone espulso dai probi viri del Movimento 5 Stelle, e che dice, sono stato espulso dal nulla, e l'ascoltatore nota, dice, però se era il nulla prima, te ne potevi andare da solo. Beh, intanto ricordiamo che Gianluigi Paragone è un giornalista e i giornalisti sono piuttosto abili, lui poi lo è in modo particolare, nel comunicare se stessi. Un altro politico sarebbe stato meno abile nel tenere in ballo questa cosa per 10 giorni. Sono 15 giorni che i giornali si occupano di Paragone, entra, esce, lo cacciano, non lo cacciano. E dunque mi trovo certe volte d'accordo con quegli ascoltatori e quei lettori che dicono che noi media diamo risalto a situazioni che forse si potrebbero ridurre anche a una breve. Ci ho detto, il problema del Movimento 5 Stelle è che non è che se ne va a Paragone, è che se ne sono andati nel tempo parecchi esponenti e forse altri se ne andranno. Dunque Luigi Di Maio fa bene a riflettere su questo, e al di là del fatto che oggi i giornali notano che si è fatto crescere la barba, che mi pare un particolare, come dire, di nessuna rilevanza, ma comunque se ne parla. Ma scherzi, No, Maria, ti fermo, è rilevantissimo, Di Maio ha la barba malfatta, molto importante. Come usa tra i giovani e non solo tra i giovani. Ma il punto è che a gennaio Di Maio, come membro importante del governo, si troverà a prendere delle decisioni, e con lui Conte e con lui il PD e con lui gli altri membri della maggioranza, perché il governo è alle prese e tutti ci chiediamo se questa decisione le prenderà con la barba fatta o malfatta. Insomma, è un grande tema, in effetti. Non ci dormo la notte, nemmeno io a tutti gli effetti. Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Alberto, sei con noi, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti e buon anno. L'hai a fatta, voi e a chi ci ascolta. L'hai fatta la barba stamattina? Ho sistemato la mia, quel poco che c'è. Sì. Eccoci, allora Alberto, come ti pare questo inizio d'anno per la maggioranza? Beh, mi pare non perfettamente positivo, diciamo la verità. Mi sembra che i 5 Stelle abbiano qualche problemino. Mi sembra che ci sia Renzi che specula, diciamo così, sul suo valore al margine, un nuovo tendenza craxi, diciamo così. E poi mi sembra un po' strano che il PD scommetta su Conte come prossimo premier, ecco. Ci sono tutte queste variabili messe insieme che secondo me insomma non fanno pensare a un'annata bellissima come il 2019, chiamiamola così. L'anno bellissimo, il famoso anno bellissimo. Il 2019 è stato un anno catastrofico dal mio punto di citavo vista. Il premier, naturalmente. Peggio, per carità, si può fare sempre. Citavo il premier, il premier, sì, scherzandoci, sì, sopra, sì, evidentemente. Certo. Però Alberto, cogliamo l'occasione proprio per fare un punto. Citavamo prima Mattarella e la sua esortazione ad avere fiducia. Sul fronte dell'economia, che si annuncia un fronte caldissimo in Italia per i paventati licenziamenti o desuberi, come vogliamo chiamarlo, su tanti fronti, da Alitalia, semmai si riuscirà a collocarla, all'Ilva, alle banche. Sul fronte internazionale, perché c'è comunque, è un anno in cui il presidente Trump sarà in campagna elettorale, lo è già da tanto, e l'Europa dovrà prendere delle decisioni. Proviamo a sforzarci. Tu vedi due cose, almeno due cose positive, una sul fronte italiano e una sul fronte internazionale, o dobbiamo prepararci al peggio in tutti e due i settori, diciamo così? Ma naturalmente è difficile semplificare, come sempre, ed è questo il grande problema del nostro tempo, diciamo così, e di quello che è accaduto fino adesso. La complessità dei temi dell'economia è sotto gli occhi di tutti, la conosciamo, la raccontiamo per radio e sui giornali tutti i giorni. Da un punto di vista internazionale, secondo me, probabilmente è l'Europa che riuscirà a toglierci parecchie castagne dal fuoco se solo decideremo di crederci un po' di più. Il programma von der Leyen prevede moltissime possibilità molto concrete per chi deve agire nell'economia, prevede nuovi fondi da condividere per modificare il paradigma produttivo in senso sostenibile, cioè per far organizzare al mondo dell'industria la grande svolta ecologica, di maggior sensibilità ambientale, anche se va detto che su questo l'Italia è abbastanza avanti, per la verità. E quindi questo sicuramente sarà una chance da cogliere, ma va colta se effettivamente poi tutti ci si allinea, se i pianeti della politica si allineano positivamente, perché mi sembra di capire che poi l'atteggiamento verso l'Europa è stato molto ondivago. Solo recentemente siamo riusciti a ritrovare una modalità di dialogo che per fortuna è stata positiva e spero che possa continuare ad esserlo. Sul versante internazionale ancora più largo, tutti stiamo raccontando di una euforia delle borse che è un po' sopra i normali fondamentali e quindi per il 2020 da questo punto di vista forse dobbiamo aspettarci una correzione dei grandi flussi dei mercati finanziari. E questo può avere naturalmente delle conseguenze poi anche sull'economia reale. La cosa di cui non si parla mai, ma che io davvero do come augurio per il 2020, è che riparta l'inflazione. L'inflazione è quella buona, quella positiva, che dà conto di un'economia che funziona, che è ripartita, che magari diventa un'inflazione da salari, che è quella più importante e che ci manca tanto, a partire dagli annunci che ha fatto per tutto l'anno e anche prima Mario Draghi, addirittura il banchiere centrale della BCE, che chiedeva agli stati dell'Eurozona di spingere sui salari, perché l'inflazione non sta ripartendo e l'inflazione positiva non può che partire dall'aumento dei salari. Ecco, proviamo. Forse dalla Germania potrà arrivare un segnale in questo senso? Forse dalla Germania, ma io spero anche dall'Italia, che è impegnata in una revisione del modello contrattuale attraverso il quale può fare molto. C'è un primo tentativo di taglio al cuneo fiscale all'interno del quale trovare delle risorse per rilanciare la produttività e farla approdare, allunare, diciamo così, alle buste paga reali, alle buste paga nette. Quello è un disegno molto importante. Purtroppo le quantità in gioco sono molto basse, quindi stiamo parlando di qualcosa che oscillerà tra i 50 e gli 80 euro poi in busta paga vera. Però è un segnale, e quello è il segnale importante, bisogna continuare su quel versante, arrivandoci magari anche ridando ruolo con grande forza alle parti sociali, che su questo hanno molto da dire e molto da fare. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta ci potete chiamare, il 349 238 6666 per i messaggi audio su WhatsApp, perché come vi stavo dicendo da prima siamo fuori sede, diciamo fuori Milano, siamo a Roma, siamo dalla redazione di Roma, in diretta dalla redazione di Roma, e quindi i messaggi WhatsApp non li posso vedere per motivazioni che riguardano WhatsApp, non hanno a che fare con questioni tecniche nostre, e quindi vi aspettiamo naturalmente. Alberto, allora diciamo così, questo 2020 si apre con tante questioni sul piatto, lo dicevamo. Dal punto di vista della maggioranza abbiamo citato la vicenda di Autostrade, ci torneremo tra poco naturalmente con Paola De Micheli. Ce ne sono molte altre, ci sono le elezioni in Emilia-Romagna che potrebbero essere decisive ovviamente per questo esecutivo. E poi, se mi si consente, sul fronte estero, che tanto estero non è perché è di fatto qualcosa che ha a che fare con noi, ha a che fare con il Mediterraneo, c'è la questione libica che in questi ultimi giorni si sta scaldando ulteriormente, e alla quale, come devo dire, che in generale, no, si sta prestando un po' poca attenzione rispetto a quello che dovremmo fare e potremmo fare noi, e rispetto a quello che effettivamente sta avvenendo sul campo. Sì, giusto, noi siamo intervenuti come Farnesina tardi con la missione di Di Maio di 10 giorni fa, una settimana fa, e che ha rilanciato la missione europea, che si farà e si tenterà di recuperare ruolo e centralità nei rapporti tra la sponda sud del Mediterraneo e appunto l'Europa meridionale, che per tanto tempo ha avuto un ruolo centrale a partire dall'Italia. Naturalmente sono i nostri vicini, sono il punto di contatto con un intero continente su cui sta scommettendo praticamente tutto il mondo per l'ulteriore fase di espansione dell'economia dei prossimi anni, E noi rischiamo di aver perso un treno dopo aver avuto una posizione di privilegio che non abbiamo saputo sfruttare o non abbiamo potuto sfruttare. Ed avere alle porte di casa naturalmente invece altri due grandi potentati come sono la Russia e la Turchia, che in questo momento sembrano più avanti nell'idea di spartizione, diciamo così, delle aree di influenza nella Libia, che ricordiamoci poi vuol dire gas e petrolio, naturalmente un approvvigionamento energetico strategico e migranti, e migranti naturalmente, certo ci sarei arrivato, è una cosa molto, molto importante anche per gli equilibri geopolitici che si possono immaginare. Ma tu che idea ti sei fatto? Perché? Ecco, perché Alberto Rioli da 15 anni più o meno, gli Stati Uniti per primi, fin quando avevano interesse nell'area, spingevano perché l'Italia prendesse la leadership della situazione libica, e noi invece non l'abbiamo fatto. Si sono succeduti i ministri degli esteri, ma la questione libica non abbiamo voluto o potuto prenderla in mano, spesso lasciando per esempio ai nostri cugini francesi l'interlocuzione con la parte a noi meno vicina dei due generali libici. Secondo te perché? Perché non siamo stati capaci noi, o perché ci è stato detto statevi buoni e fermi? Ma non so, temo che sulla vicenda libica ci sia molto non detto. Appunto la faccenda del controllo delle fonti energetiche, che ci vede ben posizionati naturalmente con gli impianti italiani ancora a controllo italiano, con concessioni ancora lunghe nella gestione anche poi formale, contrattuale di quello che accadrà, che comunque sono a nostro favore, su cui la Francia ha sempre tentato di creare un cuneo e non c'era riuscita, per la verità. Però si intreccia naturalmente con l'altro tema tutto politico e tutto strategico dell'immigrazione. Evidentemente le interlocuzioni anche informali che erano state fatte tra le due parti, un po' sotto banco, un po' tentando di finanziare l'uno e finanziare l'altro, hanno anche bloccato, per così dire, l'evolversi visibile, diciamo così, del rapporto tra l'Italia e la Libia. Abbiamo tentato di gestire per troppo tempo, in modo per così dire informale, il rapporto con questo paese che si era polarizzato dopo la fine della leadership di Gheddafi, e questa cosa alla fine sta mostrando la corda, evidentemente. Sì. C'è bisogno di un impatto diverso, e effettivamente non sarebbe sbagliata l'idea di immaginare un'interlocuzione di tipo europeo, un pochettino più globalizzata, un pochettino più autorevole ed esplicita e formalmente anche trasparente, nel senso che se l'Europa si presenta in modo unico, unitario, effettivamente poi non sono tollerabili sotto banco, come posso dire, le azioni di spossessamento e spodestamento dei presidi energetici da parte di questo o quel gruppo nazionale, evidentemente. Però questa cosa temo che non abbia argomenti sufficienti rispetto invece alla velocità con cui le altre due potenze dell'area, o meglio, non proprio dell'area a dire il vero, stanno guadagnando terreno. Parlo di Russia e spartizione turca e russa, con un Macron che comunque sorveglia. Sì, è chiaro. Sì. Che questo lo fa sempre. Una pausa. Mattino. Dove andrà Paragone? Dove andrà? Nel minestrone, nel gruppo misto. Il gruppo misto mi sembra una pentola a pressione col minestrone, pronto per scoppiare. 100 insieme che non la pensano nello stesso modo. Boh. Dottoressa Latella, l'ha detto lei, negli ultimi 20 anni in Italia non è cambiato nulla e non cambierà nulla. Non sarà il discorso di un Presidente della Repubblica, che con tutto il rispetto però mi lascia dubbioso, a cambiare qualcosa, creda. cara Maria, quindi la professione di ottimismo di Mattarella non viene ben accolta. Oh, fammi solo dire una cosa, una nota sul primo messaggio che abbiamo ricevuto, è quello su Paragone. Io li capisco un po' gli ascoltatori, perché è vero che è una questione di tecnica parlamentare, quella di entrare nel gruppo misto, perché non ne puoi comporre uno nuovo, ne puoi creare uno nuovo. Però è vero che ti lascia sempre perplesso, no? Tutti questi che stanno nel gruppo misto con idee diversissime l'uno dall'altro. È però mantenendo il loro, certo, come sì, ha fatto l'ex ministro dell'istruzione Fioravanti, mantenendo il ruolo di parlamentare con tutto quello certo. che ne consegue. Cioè, ne consegue. Fu una scelta diversa quella che fece l'ex presidente emerito Napolitano, quando anche lui lasciò, no, il PD, rientrato sì. in Parlamento come senatore, e si iscrisse al gruppo misto, ma era una cosa diversa. Vorrei dire invece all'ascoltatore che dice: non sarà il discorso del presidente Mattarella a cambiare le cose. Certo che no, se non siamo noi per primi a essere convinti della necessità di cambiare e di fare però una riflessione sulle cose pur sempre eccellenti che ci sono. Il Presidente della Repubblica, per esempio, ha citato l'eroico sindaco di un piccolo comune che è morto per salvare i propri concittadini. E beh, mi sembra poco questo. No, a me sembra, qualcosa su cui ricominciare ad avere un po' di fiducia in noi stessi, perché ce n'abbiamo veramente poca, come segnalano pure i sondaggi dell'ultimo dell'anno. Sì. Senti, Alberto, questo discorso di Mattarella di fine d'anno, no, mi è parso un discorso, ed è parso anche agli osservatori, un discorso rispetto ad altri che abbiamo sentito, non solo da lui, ma anche da altri presidenti della Repubblica, molto concreto. Maria citava il sindaco di Rocca di Papa, del quale ha parlato, però è un intervento nel quale non è stato l'unico esempio che ha tirato fuori Mattarella, e ha messo, per così dire, no, la sostanza dei fatti all'interno di un ragionamento generale. Ma sì, è un discorso tutto su, appunto, sulla fiducia e sulla responsabilità, un discorso da padre della patria, naturalmente, in linea con quello che deve essere il discorso di fine anno dell'inquilino e il Quirinale. Però effettivamente ci ha schiuso un'altra idea di raccontare il paese, che è quello che effettivamente manca, ed è quello che la gazzarra politica quotidiana ci impedisce di vedere, perché poi secondo me il vero valore di quello che ha detto Mattarella è per silhouette, per l'appunto, è per quello che non ci dicono quotidianamente quelli che normalmente presidiano il dibattito pubblico. Effettivamente il nostro paese può essere raccontato in un altro modo, soprattutto gli italiani possono essere raccontati in un altro modo, perché sono un popolo positivo, un popolo apprezzato nel mondo, come ha detto giustamente il presidente Mattarella. C'è una grande voglia di Italia, di quello che essa rappresenta, cioè anche quest'idea, questa istanza di pace, questa capacità di dialogo tra chi apparentemente non dialoga. Insomma, è una capacità che abbiamo sparso nel mondo anche in missioni complicate, difficili, di peacekeeping per tanto tempo, quindi non è una cosa retorica solo affidata all'idea che siamo i nipoti di Michelangelo e di Leonardo, la qualcosa peraltro è pure vera e che ci fa un grande onore comunque. Ecco, quindi è quello secondo me l'elemento che ha colpito chiunque abbia ascoltato le parole del Presidente. Un tono, una capacità alta di raccontare le cose della società e anche della politica, che purtroppo la politica quotidiana non è in grado di replicare, e ci conduce quando invece parla di fiducia, a una semplificazione, a un giacobinismo, a una violenza verbale che ha stufato, Alberto, francamente. Volevo chiederti questo: quando parla di fiducia il Presidente della Repubblica parla anche a quei tantissimi italiani che hanno tirato metaforicamente i remi in barca. Il saggio di Luca Ricolfi, La società signorile di massa, racconta proprio questa Italia che vive ad un alto livello con le rendite messe insieme, penso soprattutto al centro e al nord Italia, da una generazione, quella dei nonni, no, ottantenni, che magari hanno messo da parte davvero ingenti risorse come imprenditori, come commercianti, eccetera, oppure ha tirato il remo in barca e per esempio vive con la pensione del nonno, ma sempre sulle spalle della generazione, diciamo, del boom economico, quella che ha messo da parte. Ecco, è anche da lì che forse bisogna riprendere fiducia e cominciare a produrre in proprio, non vivendo di quello che ci hanno lasciato i nonni. Sì, certo. Mi inviti a nozze a parlare anche del libro del professor Ricolfi, perché effettivamente lì c'è questa sottolineatura che è la prima volta che l'Italia si trova ad avere una configurazione di questo tipo, che le persone che non lavorano, o perché non lavorano proprio perché non ce l'hanno o perché sono pensionati, sono di più di quelle che lavorano. Questo dà l'idea di dove sia finito il motore economico di un paese, in effetti. Dall'altra però la cosa che viene sottolineata è che abbiamo standard di consumo da elite, sostanzialmente però applicati su popolazioni vastissime, cioè su standard di massa. La qualcosa non sta insieme, non sta insieme perché evidentemente da una parte c'è un popolo di rentier, gli italiani sono diventati un popolo di rentier, sostanzialmente di gente che vive di rendita o addirittura di speculazione, ma dall'altra sono un popolo che vive di informalità e di sommerso, perché su quello viviamo e non dobbiamo mai dimenticarcelo. Forse bisogna prenderne atto in modo serio e effettivamente modificare i nostri comportamenti sociali, a partire poi magari dai provvedimenti che si riescono a mettere nella legge di bilancio. Altrimenti saranno altri a farci cambiare i nostri atteggiamenti, così come è successo in Grecia. Ma sì, magari sì, magari anche no, nel senso che poi questa configurazione di questo paese, che è così strano, se guardi i numeri, è pazzesca, nel senso che noi abbiamo, per dire, 2.400 miliardi di raccolta dei fondi che sono pari al debito pubblico. Questo vuol dire che c'è una ricchezza privata che solo nei fondi mette la stessa quantità che l'Italia, come Italia, mette nel debito pubblico. Tanto per dirne una, abbiamo 10.000 miliardi di ricchezza, così come è conteggiata secondo gli standard internazionali, ed è una cifra spropositata, diciamo così, quasi da record in Europa. È 8,4 volte il reddito. È uno standard anche questo che non ha uguali in Europa. In Germania è 7,9. Tanto per citare dei numeri, per farci capire che noi siamo effettivamente un paese ricco da un punto di vista statistico. Poi magari con delle diseguaglianze che sono forti, ma anche lì, se vai a guardare le statistiche, sono meno forti per esempio che in Germania o in Francia. Quindi anche questo fa parte dell'essere italiani, di quell'essere italiani che non percepiamo e che probabilmente non percepiscono nemmeno le statistiche, e purtroppo non percepisce nemmeno il fisco, ahimè. Tra l'altro Luca Ricolfi sarà il nostro ospite domani, no Maria? E avremo modo di fargli sentire di sentire anche dagli ascoltatori che cosa ne pensano appunto della sua tesi. E qua qualche ascoltatore commenta in merito a Mattarella, dice: il discorso di Mattarella in effetti rispecchia noi italiani, ma non il governo, quantomeno non la maggioranza. Grazie Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto, grazie, buona, a voi, giornata. Buona giornata. Buon anno, ancora buon anno a tutti. Buon inizio d'anno e buon inizio d'anno anche a Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Eccoci a voi. Qua. Vai Maria. Buongiorno ministro. Allora, andiamo subito alla questione che potrebbe diventare cruciale per il governo, vale a dire la questione del revoca il dossier su Autostrade. Diciamo che c'è stata ieri questa presa di posizione di Luigi Di Maio in diretta Facebook, che ricorda come nel mille proroghe si sia inserita la norma sulle concessioni autostradali, per cui è avviato un percorso che per alcune infrastrutture permetterà la revoca delle concessioni. Lei entro 2 settimane chiuderà il dossier su Autostrade, con tutti i report sulle manutenzioni, procedimenti giudiziari, pareri dell'avvocatura. A oggi, secondo lei, ci sarà un parere, diciamo collegiale, anche del Consiglio dei Ministri sulla revoca e in quale direzione? Allora, premesso che la revoca è un atto di natura teoricamente amministrativa, nel senso che il ministro competente potrebbe revocare con un decreto amministrativo sua firma, ma non può essere la revoca di questo tipo un atto esclusivamente amministrativo, perché stiamo parlando di una concessione che riguarda 2.800 km di autostrade, di una vicenda molto complicata, di un impatto molto complicato. E quindi da sempre, da quando mi sono insediata, io ho sempre detto 2 cose. La prima è che tutto il rapporto concessorio che intercorre tra lo Stato e i concessionari autostradali in particolare, ma non solo, ok, ha bisogno di essere rivisto, perché in troppe situazioni è emerso che questi contratti di concessione danno molti vantaggi al concessionario e mettono lo Stato in una condizione di debolezza, poiché la proprietà del bene concesso, in questo caso l'autostrada, è dello Stato, non ci può essere questa disparità. Questo l'ho detto dal primo giorno e questo stiamo facendo. La norma che lei citava prima, che è entrata nel mille proroghe, è una norma che fa esattamente questo, riequilibria il rapporto tra Stato e concessionari e mette i concessionari tutti nelle stesse condizioni, perché l'altra cosa che abbiamo rilevato è che c'erano concessionari che avevano alcuni aspetti del loro contratto diversi da quelli degli altri concessionari, ok? Questo è il primo tema. Il secondo tema è quello della revoca. La revoca non è... Io non sono un magistrato, io non ho, non, io inteso, scusate questo singolare un po', inteso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è la magistratura, non ho nessuna intenzione di sovrappormi al lavoro che devono fare le procure, che fanno le procure egregiamente senza, diciamo così, bisogno del mio aiuto. No. Quindi io non ho l'esigenza di esprimere un giudizio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto un dossier che riguarda l'adempimento o meno degli obblighi che il concessionario aveva di gestire, di custodire il bene pubblico. Okay? Le conseguenze di questo dossier le decidiamo insieme, perché sono conseguenze importanti. Allora, e le prime risultanze, mi scusi De Micheli, le prime risultanze di questo rapporto quali sono? Che c'è inadempienza a parte di Autostrade oppure no? Beh, allora, innanzitutto il dossier, prima di renderlo pubblico, credo che sia corretto farlo vedere al Presidente del Consiglio e ai miei colleghi ministri. È ovvio che però è evidente a tutti che qualcosa in questi anni è successo, o meglio, temo che qualcosa in questi anni non sia successo, perché noi abbiamo troppe evidenze, ahimè, concrete, di situazioni di mancata manutenzione, di ritardi nella manutenzione, di manutenzioni fatte secondo criteri che non sono criteri, diciamo così, oggettivi. Allora, il risultato del dossier prima ovviamente lo comunico al Presidente del Consiglio e ai miei colleghi ministri, ma è evidente agli occhi di tutti che qualcosa negli anni passati nella gestione autostradale è evidentemente successo. Le conseguenze. Le posso chiedere, Ministro? Le decidiamo insieme perché è una responsabilità collettiva. Senta, Ministro, le posso chiedere che cosa ha pensato nel momento in cui le hanno comunicato che era venuto giù un pezzo del soffitto della A26 di nuovo nella tormentata Liguria? In quel momento, che cosa ha pensato? Ho pregato che non ci fosse sotto nessuno. La prima cosa. E la seconda? La seconda è che dovevo affrontare il problema rapidamente, quindi ho immediatamente fatto tutto quello che deve fare, credo, secondo me, un ministro. Ho chiamato Aspi, ho chiesto immediatamente di fare delle verifiche, ho fatto le verifiche sulla viabilità, ho sentito il Presidente della Regione Liguria, ho fatto quello che fanno, credo, le persone nel mio ruolo, insomma, ho agito. Come faccio sempre, però in questi giorni Aspi l'ho vista più di una volta, perché sapete che ci sono stati molti problemi di viabilità sia in Liguria, ahimè, che anche sulla A14, in particolar modo tra l'Abruzzo e le Marche. E quindi noi abbiamo dovuto riprendere con il concessionario un processo di organizzazione dei cantieri, perché ci sono molti pezzi di autostrade che sono sequestrati dalla magistratura. Non c'è soltanto il tema dei viadotti, o adesso quello delle gallerie, ci sono le barriere antirumore, ci sono le barriere di sicurezza che derivano, diciamo così, dall'indagine della Procura di Avellino, e quindi in questi giorni noi ci siamo visti per provare a sbloccare un po' di cantieri e ad attivare una procedura oggettiva di intervento su queste, su questi cantieri. Noi di fatto, tra la norma del mille proroghe e gli atti amministrativi che stiamo facendo come Ministero, stiamo concretamente revisionando le concessioni per rispostare l'equilibrio concessorio da, diciamo così, un manifesto favor nei confronti dei concessionari ad una difesa dell'interesse pubblico. Io Noi lo stiamo facendo progressivamente ma inesorabilmente, anche con una certa rigidità, devo dire, che ovviamente non tutti comprendono e non tutti apprezzano, ma io penso che questo sia il nostro dovere. Allora, Ministra, al di là delle responsabilità di Autostrade, che come si diceva andranno accertate, ci saranno anche delle valutazioni che saranno contenute in questo rapporto, le quali ci diceva e che insomma in parte abbiamo intuito essere negative per il concessionario, c'è una questione forse che ha anche a che fare con i controlli messi in atto dallo Stato sul concessionario, che in questi anni evidentemente non hanno funzionato, almeno ci pare abbastanza palese, no? Ma io credo che ci sia un errore di fondo e una trascuratezza. L'errore di fondo è che sostanzialmente il Ministero non ha poteri di controllo, e questo è l'errore di fondo. Quando prima vi dicevo che le concessioni sono contratti che vanno rivisti, che vanno rimessi in ordine, bisogna ridare ordine a questa situazione, mi riferivo anche a questo. Il Ministero non ha un grande potere, può verificare i piani di manutenzione, ok? Ma il controllo e la manutenzione per contratto è tutto a carico dei concessionari. Noi stiamo spostando esattamente questo equilibrio. Nel decreto Genova si è istituita l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza e io la sto trasformando in una realtà, perché poi ho dovuto fare anche tutta la procedura attuativa. Adesso finalmente arrivano i 60, ho nominato il capo, il direttore dell'agenzia, adesso arrivano i primi 60 ingegneri. Noi abbiamo istituito un osservatorio permanente, che è vero che non è ancora l'obbligo di fare le manutenzioni che diciamo noi, ma diciamo che quando un concessionario si siede a quel tavolo lì e noi gli diciamo determinate cose, con tutto quello che è successo oggi abbiamo, diciamo così, un potere negoziale un pochettino più forte. Abbiamo imposto che i controlli vengano fatti da società terze e non più da società di proprietà dei concessionari medesimi, perché controllante e controllore allora non possono essere la stessa persona. Allora, intendo dire che uno dei limiti di questo rapporto delle concessioni in Italia era proprio questo tipo di sbilanciamento. Senta, oggi Ministro, a proposito... Oggi il Ministero si è riappropriato di questo potere di controllo di cui parlavate giustamente voi. È evidente che comunque in passato una situazione di questo tipo non si può essere generata senza che, diciamo così, c'è un'evidente trascuratezza, questo è chiaro, però io credo che bisogna dare le responsabilità nell'ordine di importanza di chi le ha, quindi in primis il custode del bene, e questo vale per i privati come vale per ANAS, perché anche ANAS è un custode di bene pubblico, e quindi gli stessi, diciamo così, obblighi che noi imponiamo ai concessionari privati li dobbiamo imporre anche ai concessionari pubblici, e io non faccio differenze sotto questo punto di vista, perché l'oggetto è di difendere il bene pubblico, quel bene lì noi poi lo dobbiamo lasciare ai nostri figli, non è che lo possiamo lasciare, no? In condizioni, sì, un po' scadente. Senta, ministro, mi fa chiedere una cosa. A proposito di negoziazione, è emerso in questi giorni che società Autostrade ha in qualche modo minacciato, se c'è la revoca poi saranno migliaia i dipendenti che si troveranno di fatto senza lavoro. Di Maio ha replicato loro: non è così, perché comunque questi dipendenti verranno riassorbiti. In che modo, secondo lei, se fosse questo il caso, diciamo? Allora, io credo che qualunque sia la decisione che il governo deve andare a prendere, il governo dovrà valutare, oltre che le risultanze delle verifiche fatte, dovrà valutare l'impatto finanziario e soprattutto l'impatto occupazionale di qualunque decisione, e si dovrà comunque far carico della soluzione di entrambi i problemi, perché ovviamente stiamo parlando di una situazione molto articolata e complessa sul territorio. Quando parlo di questo parlo anche del piano degli investimenti che Autostrade ha, che non vi sfuggirà, è un piano molto importante, perché ci sono degli investimenti importanti da fare, a partire dalla Gronda, il passante di Bologna, e quindi insomma noi dobbiamo, quando affronteremo insieme questo dossier, guardare gli effetti e le conseguenze sotto tutti i punti di vista. Detto questo, ci sono due categorie di persone che non devono e non possono pagare le conseguenze di quanto accaduto negli ultimi decenni. La prima categoria di persone sono i lavoratori, la seconda e le lavoratrici, sempre, e la seconda categoria gli utenti, i cittadini, le persone che viaggiano sulle autostrade per lavoro, perché hanno l'esigenza di muoversi e di spostarsi. Queste due categorie di persone non possono essere danneggiate dalle decisioni che noi andremo a prendere, e quindi ci vorrà un equilibrio rispetto a tutte le scelte. Questo vuol dire, De Michele, in sostanza, che se nel caso dovessero essere revocate le concessioni ad autostrade e il subentrante fosse ANAS, come sembra di intuire, ANAS si dovrà far carico dei dipendenti di autostrade che diventeranno di fatto i dipendenti pubblici, in sostanza. Io non ho detto questo, ho detto che noi risolveremo il problema occupazionale se il problema occupazionale si dovesse determinare. Ok, in qualche senta, modo. Ministro, Conte è il prossimo eventuale candidato premier del PD, le piacerebbe questa ipotesi, laddove, quando, magari davvero tra 2 anni o 3 si andrà a votare alle elezioni politiche? Ma guardi, io credo che io sono una di quelle che è abbastanza evidente va d'accordo col Presidente del Consiglio da tempi non sospetti, tra l'altro che come ricordo spesso sono stata anche commissario al terremoto per 5 mesi del governo precedente che mi aveva confermato in questo incarico, quindi ho avuto modo di lavorare con lui sia prima che adesso e ho stima. È una persona molto, molto equilibrata, cosa di cui secondo me questo paese ha particolarmente bisogno, perché troppo spesso ci ritroviamo di fronte a, soprattutto nell'agone politico, ad eccessi che non aiutano le persone a tranquillizzarsi, a guardare al futuro con un po' più di tranquillità, di fiducia e di serenità. Quindi io credo che abbia delle caratteristiche molto importanti. Io non penso che oggi si possano ipotizzare scenari, diciamo così, di candidature a 3 anni, perché in mezzo ci sono alcune questioni non banali. Primo, dobbiamo governare bene. Dobbiamo governare bene, dobbiamo fare le cose per bene e dobbiamo farle orientate sempre e comunque ad una questione sola. La misura dei nostri risultati sono le persone e il miglioramento della loro qualità della vita. Secondo, da qui a 3 anni la condizione dei partiti e dei movimenti che sostengono questo governo si trasformerà inevitabilmente, perché proprio faremo delle cose e altre invece le dovremo ancora fare e saremo dentro di uno scenario politico diverso. Terzo, la legge elettorale. Ovviamente se si arriva ad una legge elettorale, diciamo così, proporzionale, io tendo ancora ad essere, diciamo così, per mio impianto culturale più maggioritario, ma se si arriva ad una legge proporzionale è del tutto evidente che la scelta del candidato premier è un po', diciamo così, è più d'immagine, perché poi dopo i governi si faranno dentro le coalizioni parlamentari. Certo. E quindi io lascerei a Conte la tranquillità di fare bene il Presidente del Consiglio, che è una cosa ovviamente alla quale lui tiene particolarmente, e tutte le altre discussioni, insomma, ce le rinviamo a quando sarà necessario farle. Mi auguro, credo, spero che per il Paese nei prossimi 3 anni, ecco, fra 3 anni probabilmente faremo questa discussione. Sì. Faccio notare, non lo faccio notare a lei, non De Michele. Se lo augurano, ma io me lo auguro. Sì. No, faccio notare non a lei, De Micheli, ma ai nostri ascoltatori. Lei non è la prima che ci dice, e non è, diciamo, solo dalla sua forza politica, che ci dice: sono a favore del maggioritario, ma finiremo col proporzionale. Però, sì, evidentemente, è un destino inevitabile. Questo. Sono processi che partono. Diciamo, cioè, non è che è casuale che si arrivi lì. No, che dico, sono tutti a favore del maggioritario e poi finiamo col proporzionale. Ma sono accadute due cose, non è che ci possiamo far finta di niente, anche se, cioè, sa quante cose potenzialmente io le vorrei fare in un modo, ma poi i fatti fattualmente li devo fare in un altro. Il punto è che c'è stato un referendum che avrebbe spinto su un impianto ipermaggioritario del paese che abbiamo perso non tanti anni fa. Anche se sembra che sia passato un millennio, in realtà sono passati pochi anni. Secondo, c'è una condizione politica di forze politiche sopra il 10% molto più numerose di prima, cioè mentre prima c'era, noi abbiamo avuto un tempo nel quale esistevano 2 grandi partiti, il PD, vi lo ricordate, il PDL, anche quello, no? Sembra un secolo fa, ma non è che era un secolo fa, era qualche anno fa. È ovvio che quella vicenda, il fatto che siano accadute queste due cose, adesso sto facendo una semplificazione, ovviamente ci vorrebbe un'analisi un pochettino più profonda, sì, ma semplifico con questi due fatti, è ovvio che spinge il sistema verso una condizione proporzionale. Se ci avessimo la possibilità di stare dentro ad una dinamica maggioritaria, leggi, insomma, adesso andiamo a votare a gennaio, no? Io qui in Emilia Romagna andiamo a votare con delle leggi con impianto maggioritario. Anche quando ci sono dei problemi nei risultati elettorali, comunque quelle leggi garantiscono la stabilità per 5 anni. Non è banale. Detto questo, quando avevamo una legge maggioritaria, comunque i governi sono stati instabili in Italia, perché il governo nazionale ha, diciamo, dei processi suoi, perché se lei pensa alle ultime legislature, quanti governi sono cambiati nonostante gli impianti delle maggioranze siano stati costanti, no? Sono cambiati, ma il Partito Democratico era più o meno sempre al governo, tranne la breve stagione giallo-verde. Beh, da Enrico Letta in poi siete sempre stati al governo. Perché lì avevamo il premio di maggioranza alla Camera, che ci consentiva di... Alla Camera eravamo in maggioranza praticamente da soli. Era un monocolore alla Camera, dottoressa, nella precedente legislatura, per il premio di maggioranza che aveva la legge elettorale di allora, no? E poi, appunto, in quel caso erano le dinamiche interne del partito che hanno condizionato i governi e non le dinamiche del Parlamento. Però, insomma, è evidente che noi siamo in un altro mondo rispetto a quello di cui stiamo adesso. Noi stiamo parlando di un mondo che, pur essendo vicino temporalmente, è ormai molto lontano in termini di assetti politici. La vera grande rivoluzione del voto del 4 marzo del 2018 è stato che è finito il bipolarismo al quale eravamo abituati nell'ultimo decennio. Non dico che non torni, perché io continuo a credere che la distinzione fondamentale tra destra e sinistra continua a rimanere, anzi si accentueranno con le nuove sfide tecnologiche del futuro, si accentueranno con la robotica, si accentueranno anche con le sfide, tra virgolette, di tutti i giorni di casa nostra, vedersi l'agenda di governo che metteremo in campo da gennaio in poi, si accentuerà la differenza tra destra e sinistra. La famosa agenda di governo. E il governo? Non ho capito. Cosa succede? Scusi. Se vince Bonaccini il governo va avanti? E se perde? Ma io credo che andrà avanti comunque il governo e credo che Bonaccini vincerà. E lo dico dalla città in assoluto più di frontiera dell'Emilia Romagna, perché la mia città, Piacenza, è storicamente l'unica città che non viene descritta come una città rossa, perché qui c'è sempre stata l'alternanza già dagli anni 70. Qui sappiamo cosa vuol dire essere alla frontiera, ma sappiamo anche che è particolarmente positivo il giudizio espresso sull'amministrazione emiliano-romagnola. Dobbiamo veramente chiudere. Grazie a Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, per essere stata con noi del Partito Democratico. Cara Maria, noi ci risentiamo domani alle 8:20, parleremo con Luca Ricolfi e poi ovviamente altri ospiti. Il GR, noi invece ci risentiamo domani mattina alle 7:15 con la rassegna stampa e poi dal 7 gennaio ricominciamo regolari alle 6:30. Ciao.